Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Sei que chegou a nossa hora, prontos pra vitória, forza Portugal. È durata, se no, 6 minuti la partita di Cristiano Ronaldo, poi praticamente non c'è più stato. Questa è un'altra storia, un piccolo dramma sportivo. Forza! Eder! Eder! Eder! Eder! Al minuto 109! Il Portogallo è il campione d'Europa per la prima volta! Il Portogallo senza Cristiano Ronaldo! Thunderdog! Alla fine vincendo 2 partite in tutto l'Europeo, alzerà la Coppa per la prima volta nella sua storia! Cristiano Ronaldo, per la prima volta nella storia del Portogallo, alza la coppa al cielo e il Portogallo è campione d'Europa 2016 al termine di un europeo che continueremo a raccontare per mesi, forse anche per anni, perché è l'europeo che ci ha raccontato molte storie e qualche leggenda. Today I had bad luck because, you know, I had a small injury in the beginning of the game. But my colleagues do it, the part that they run, they fight. We play against everyone. We play against 70,000 people here in the stadium. Nobody believes in Portugal, but we win. This is the most important. Ronaldo l'ha scoperto pochi minuti fa che cosa pensano in Portogallo del successo dei portoghesi, che sono atterrati mezz'oretta fa a Lisbona, accolti da 2 idranti, uno rosso e uno verde, a disegnare nel cielo l'arco con i colori della bandiera del Portogallo, che adesso sta sfilando sul pullman scoperto. Questo serve, non come quello della Francia che ieri qualcuno con 12 ore di anticipo ha tirato fuori dal garage, salvo poi a mezzanotte riparcheggiarlo. Ciao Pierluigi Pardo! Come va ragazzi? Hai visto che bello il pullman del Portogallo? Ma io secondo te hanno preso quello della Francia e l'hanno ripitturato, sì, nella notte? L'hanno dipinto notte tempo. Può essere, vabbè, è una delle mille storie. Questa fa ridere di questa domenica che ha laureato il Portogallo campione d'Europa. Bando alle ironie di chi dice che noi avevamo l'Eder sbagliato, però un pizzico di rimpianto vedendo il Portogallo che vince l'Europeo, possiamo coltivarlo anche noi. Certo. Sì, sì, ma assolutamente, ma noi possiamo essere assolutamente quelli che rosicano, non ci sono grandi dubbi, però credo che alla fine questo verdetto ci stia. Ieri è stata una partita più equilibrata di quello che mi aspettavo. In generale la Francia secondo me comunque ha costruito più occasioni, lui Patrizio è stato il migliore in campo. Chiaramente la partita sarà condizionata all'infortunio di Cristiano Ronaldo, quindi forse il Portogallo con Cristiano avrebbe fatto una partita migliore dal punto di vista offensivo. Certamente ha fatto una grande partita di equilibrio, di compattezza, di cuore, è riuscito a far giocare male tutti, è riuscito a far giocare male in finale anche la Francia. Insomma, io sono... ha vinto meritatamente, perché poi il calcio è fatto anche di tattica. Rispondo a un amico che ha scritto ancora prima che cominciassimo, 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp. E lui ha scritto: va bene, ha vinto il Portogallo, ma non si dica che è meritato, Maurizio. Invece è strameritato, sì, non meritato, strameritato. Sì, no, dico, avevo capito traffico. No, nell'economia della partita, secondo me, sai che io ho grandi simpatie portoghesi da tempi non sospetti, quindi però riconosco che durante la partita la Francia comunque ha prodotto più occasioni, su questo non c'è dubbio, cioè lui Patrice è stato sicuramente più impegnato rispetto a Lloris, però era una partita da pareggio, era una partita che poteva girare ed è girata. E poi c'è sempre comunque il grande punto interrogativo di cosa sarebbe stato con Cristiano Ronaldo in campo, perché Cristiano Ronaldo in campo è il giocatore che fa la differenza di questa squadra, quindi aver giocato praticamente senza di lui e averla comunque portata a casa è una grande prestazione. E poi, come diciamo ieri sera, secondo me ripaga il Portogallo della delusione del 2004 e complessivamente è un premio, una specie di premio alla carriera, perché il Portogallo è una grande nazione di calcio, che ha avuto generazioni di giocatori molto importanti. Non ha vinto con Eusebio e Figo. Non ha vinto con Eusebio, non ha vinto con Figo, non ha vinto con Rui Costa, e vince invece con Cristiano Ronaldo. E vince con Eder Antonio Macedo Lopes, in arte Eder, quello giusto, non il nostro, che sai quanti gol aveva fatto con la maglia del Portogallo prima di ieri sera? Non lo so, so che ne aveva fatti 6 con la maglia del Lille. Ne aveva fatti 3 in 29 presenze. Il primo contro l'Italia in amichevole, tra l'altro. Il Io primo lo ricordo contro l'Italia in amichevole, credo a Napoli col Braga. Sì. Ma insomma, sì, in estate, sai, quei trofei estivi, insomma, così buoni soltanto per fare un po' di cassa e per ovviamente per far venire l'acquolina della stagione futura. No, ma il Portogallo è stata squadra, sicuramente. Si è beccato il lato debole del tabellone, non ha avuto un percorso facilissimo, non ha avuto un percorso complicatissimo, però le sue difficoltà comunque le ha superate, perché ad esempio la Croazia, superata anche lì senza fare un calcio spettacolare, probabilmente anche, non dico rubacchiando, ma sì, però era quella che per tutti usciva dalla prima fase con il calcio più bello, migliore, quello appunto, che poteva pensare di arrivare in fondo. Se tu li butti fuori, qualche merito ce l'avrai. Io rispondo anche a chi scrive che fine hanno fatto quelli del tabellone squilibrato e quelli della finale Italia-Germania, chi vincerà sarà campione. I secondi hanno sbagliato, ma secondo me i tedeschi devono maledire la notte di Bordeaux, perché li abbiamo fiaccati nel fisico e nello spirito. Il tabellone era squilibrato. E la possiamo fare una domanda? 800-24-00-24. Questa Italia era più forte o meno forte del Portogallo? E poi un'altra domanda, Pier, poi andiamo lì in traffico. Forse siamo anche un po' più forti. Però mi interessa sapere anche cosa ne pensano da casa. E poi ti leggo altri due messaggi, qua e là, ma ne stanno arrivando a decine. Dopo questo europeo, la Juve, se vuole vendere Pogba, dovrà pagare perché è un bidone. Vabbè, questa è la battuta. Sicuramente, però il tema si pone, di come esce Pogba da questo europeo. Il tema si pone, ma credo che il tema verrà risolto da Mourinho o da qualcun altro che... Non so se farà 100 più 23, ma magari farà 80 più 15. Cioè, il valore di Pogba è indiscutibile e non può essere il risultato della partita di ieri sera che cambia il valore. È vero, giornalisticamente credo sia giusto sottolineare che non è stato l'europeo di Pogba, ma non è stato neanche l'europeo di Ronaldo, se dobbiamo guardare dal punto di vista delle prestazioni. È stato l'europeo di Griezmann, è stato l'europeo di Bale. Cioè, questi sono stati i giocatori che hanno fatto... grandi prestazioni individuali, ma come sempre nel calcio, soprattutto nel calcio delle manifestazioni brevi, poi esiste una realtà che è deformata. Il Portogallo ha fatto 9 punti in 7 partite, ad esempio, mi sembra calzante. Cioè, se fosse stato un girone all'italiana, oggi il Portogallo sarebbe quasi starebbe a metà classifica. No, sarebbe a metà bassa classifica. Metà bassa. E invece vince, e invece ha vinto l'europeo. Sì, guarda, quindi... scrive Riccardo via WhatsApp, è tra le peggiori squadre dell'europeo. C'è anche chi scrive: il calcio non è sempre logico, siete sicuri che se fossimo passati dall'altra parte del tabellone avremmo vinto? No, noi non siamo sicuri di niente, però oggi che il Portogallo festeggia l'europeo, tra l'altro confermando la tradizione che l'europeo sfugge a 1000 pronostici e a 1000 ragionamenti molto più dei mondiali, oggi che il Portogallo festeggia, io personalmente un po' rosico, ma chiedo anche agli amici a casa, 800-24-00-24. Poi voglio sapere anche se vi è piaciuto o no questo europeo, per me il voto è 7,5, traffico. Viva Portugal. Viva Portugal. Tutti convocati. Sei que chegou a nossa hora, prontos para a vitória, força Portugal. È molto difficile, è una delusione cruele, perché potevamo vincerla, abbiamo avuto le occasioni, l'ultima negli ultimi minuti, abbiamo toccato il palo, si è giocato a poco, senza dubbio ci è mancato forse un po' di lucidità, un po' di freschezza dopo la semifinale con la Germania. Il Portogallo ha giocato la sua partita, gli faccio i complimenti. Saluto Paolo Condoglio, ciao Paolo. Carlo? No, Giovanni. L'abbiamo mandato in ferie dopo la serie di pronostici sbagliati, così rispondiamo anche agli amici che stanno scrivendo. Ieri ci ho preso solo io. Bravo Giovanni. Quindi l'abbiamo detto, non lo dico più, perché già ieri sera, insomma, abbiamo dato. Sì, sì, anch'io ho partecipato a un concorso pronostici facendo delle figure barbine. Assolutamente. Senti, vabbè, che pazienza. Io non sono d'accordo con quelli che dicono che il Portogallo ha vinto per caso, immeritato, la peggior squadra vista all'europeo tra quelle che potevano ambire alla vittoria. Credo che abbia vinto la squadra che nell'equilibrio dell'europeo, che è una manifestazione per definizione equilibrata, ha dimostrato di saperla attraversare con il maggiore equilibrio. È naturale. Allora, punto primo, io non ho mai visto una squadra vincente sfortunata. È una cosa che non mi è mai capitata. Non ho mai visto una squadra sfigata che ha avuto, eppure che ha vinto. Quindi è evidente che nel corso di un torneo, per arrivare fino in fondo, per vincere, tu hai bisogno che alcuni episodi girino a tuo favore. E non c'è dubbio che ci sono stati due pali nella storia del Portogallo in questo torneo, è quello di Perisic, che poi subito dopo fa gol Quaresma, e quello di ieri di Gignac, sono dei momenti nei quali la fortuna ti gira bene, vanno dentro quei due palloni e il Portogallo è fuori oppure perde la finale. Dall'altra parte, se nelle tue file c'è il miglior giocatore del continente e quello si fa male dopo sei minuti della finale, credo che tu abbia anche pagato il debito che avevi con la buona sorte. Sì, hai messo tutto in pari. Ci stiamo interrogando, stiamo chiedendo anche agli amici se possiamo avere un po' di rimpianto in più noi italiani per aver visto vincere il Portogallo. Scrive un amico: l'Italia è stata la più forte ed è stata l'unica a superare quattro gare di alto livello, le altre ne hanno fatta una al massimo. Io non lo so, Pier, Paolo, livello, cosa? Noi abbiamo fatto due gare di grande livello che sono peggio, in Spagna. Onestamente Svezia è stata deludente e Iran non siamo poi abbiamo, e poi ci siamo schiantati alla terza contro la Germania. Ma no, schiantati no. Schiantati no, nel senso che siamo tornati a casa. Sì, siamo usciti ai rigori. Non abbiamo subito una lezione di calcio come è successo nel 2012, che siamo andati in finale, ma la finale non l'abbiamo giocata. Stavolta fino ai quarti di finale con la Germania. E non c'è dubbio che se l'Italia fosse andata dall'altra parte del tabellone, è chiaro che te lo chiedi in questo momento, perché il Portogallo, alla fine, la squadra che ha vinto viene fuori dalla parte debole, chiamiamola così, del tabellone. A proposito di combinazioni, mi viene in mente Milik, Milik a un centimetro dalla porta Germania-Polonia che non ci arriva. Sì, sì, però ragazzi, Pier, io credo che proprio l'andamento di questo europeo sia stato... Cioè, l'Italia ha fatto le partite peggiori contro le squadre più deboli. Contro la Svezia e contro l'Irlanda ha giocato male e non è un caso. L'Italia è una squadra che gioca bene quando può aspettare e ripartire, l'ha fatto con grande qualità, soprattutto contro la Spagna e il Belgio, ma in qualche modo anche contro la Germania. Quindi secondo me manca la controprova e secondo me il dato finale di questo europeo è che ci sono 6-7 squadre buone, tutte sullo stesso livello. Cioè, sinceramente, non credo che si possa dire in assoluto che il Portogallo sia superiore alla Francia, non credo che si sia potuto dire che la Germania fosse superiore a noi, che la Francia fosse superiore alla Germania. È stato un europeo di equilibrio in una competizione che già di per sé è equilibrata. Ogni 12 anni c'è una sorpresa a livello di calcio europeo: 92 la Danimarca, 2004 la Grecia, ieri il Portogallo. Dopo gli anni del dominio spagnolo, nei quali oggettivamente c'era una squadra superiore a tutte le altre che dominava, mi sembra che il dato sia questo, grande incertezza. Sì, grande... io tratterei però diversamente il Portogallo da Danimarca e Grecia. Sì. Assolutamente, perché certo. Danimarca e Grecia sono state due favole incredibili di due squadre. Il Portogallo è come il Belgio, è come noi, era un outsider. Esatto, dai. Cioè, è incredibile che il Portogallo sia arrivato al 2016 per vincere il primo grande torneo. Senza veramente... Guarda, c'è un amico che scrive... che ha avuto Eusebio, che ha avuto Figo, Rui Costa... Paolo Sousa, Deco, che ha avuto Paolo una finale Ronaldo, in casa contro la Grecia. È incredibile, la ferita che si è rimarginata ieri. Guarda, scrive un amico: come scrisse il buon Candido Cannavò in occasione della vittoria della Grecia, io non condivido il paragone, però scrisse: grande risultato sportivo, ma il calcio è un'altra cosa. E invece il Portogallo è una signora squadra, non è... Non condivido, anche perché poi è stato formidabile Fernando Santos a fondere diverse generazioni di giocatori, perché tu avevi proprio i nonni, Riccardo Carvaglio, che di fatti dopo tre partite è uscito di scena e non è stato più chiamato in causa, avevi i padri attuali, Cristiano Ronaldo, Nani, Quaresma, Mutinho che poi è rientrato nel finale dopo aver perso il posto. Avevi i ragazzini che l'anno scorso sono arrivati secondi all'Europeo Under 21, cioè João Mario, Willy Carvalho, Rafa Guerreiro, e avevi il Pupo che il Bayern si è già comprato per 30 milioni più bonus. E quello è ancora di una generazione. Giocatore più giovane di sempre in una finale dell'Europeo. Ma è poi bravissimo. Ma veramente bravissimo. Hai fatto 6 pareggi in 7 partite. Non dimentichiamoci questa roba qui, ma non perché io mi sia fissato, perché è un altro sport. Gli europei e i mondiali sono un'altra cosa. Soprattutto in situazioni di grande equilibrio. È chiaro che se ci fosse stata una squadra dominatrice come è stata la Spagna per 6-7 anni, probabilmente anche nella competizione breve comunque la differenza l'avresti sentita. Non dimentichiamoci che il Portogallo sfiorò la finale 4 anni fa, fra l'altro, perché uscì ai calci di rigore contro la Spagna, e forse avremmo vinto l'Europeo. Opportunamente citato la Spagna, ovviamente la Spagna, io parlo quella del Mondiale 2010, squadra molto più forte di questo Portogallo, ecco. Però quella Spagna fece 4 dagli ottavi alla finale, fece 4-1-0, due dei quali ai supplementari, quello di Iniesta ovviamente e quello contro il Paraguay. Quindi è chiaro che in questi tornei, quando comincia l'eliminazione diretta, che è vinci o muori, vale tutto. Vale, ricordo anche la Francia nel 98 salvarsi col Paraguay quando era praticamente fuori. Abbiamo meno di un minuto. Sì. C'è Christian da Brescia che vorrei sentire prima della borsa, se riusciamo. Però voglio girare due messaggi a Paolo Condò e avere da lui la sentenza. Primo messaggio: se non fosse per la prostituzione intellettuale e mediatica di voi lecchini giornalisti, Zerbini del potere di Agnelli, il cartellino di Pippa Pogba non varrebbe neanche 30 milioni. Te l'ho letto tutto. L'altro: non sentenziate Pogba, solo Pelé ha vinto in nazionale sotto i 25 anni. Al professor Condò la sentenza. Sì, no, rispondo solo al secondo perché io parlo soltanto con le persone educate. No, ma è la sintesi di tanti che stanno scrivendo. No, Pogba è sopravvalutato e questo europeo l'ha messo a nudo. Ditelo a Mourinho. No, Pogba... Ma io trovo che la questione sia molto semplice, ma la ripeto da molto tempo. Pogba è un future... Nel senso che su di lui, per l'abilità del suo procuratore essenzialmente, ci sono sempre state delle valutazioni esageratissime, ma esagerate per dire lui arriverà a valere quello. E ti devo dire che arrivato a costo zero, nel corso del tempo è arrivato a 10, 20, 30, 40, 50 milioni. Secondo me il valore di Pogba adesso si aggira su un mercato internazionale, più o meno potrebbe essere... questo qui, 60 milioni, ecco, i 120 di cui sento parlare, a me sembra una cosa... Ma via, poco meno di un milione al chilo, esatto, ma vuol dire, non ho aspettato questo europeo per dirlo, sul fatto è un grande giocatore, è un grande centrocampista, essendo un 93 ha ancora grandissime margini di miglioramento, ma non è il giocatore che può costare di più al mondo, perché se lui costa 120 milioni... ma voglio dire, non vedo neanche oggi, dove sia. Se lui costa 120 milioni, Messi, Ronaldo, oggi, Neymar e qualcun altro. Non vedo dove sia il problema, non vedo perché qualcuno debba offendersi o altro per le valutazioni più alte o più basse. Io penso e spero che rimanga la Juventus, perché è un giocatore che può andare ancora tantissimo alla Juventus. Dopo vi dico Pogba. Cosa ha detto questa mattina a Minoraiola al Times. La Juve non vuole cedere Pogba, la società vuole rinnovare il contratto e l'intenzione di trattenerlo, e lui non ha fretta di andare via. Infatti, secondo me... E in 15 secondi, perché siamo fuori dalla borsa. Bonucci è più difficilmente trattenibile, come si diceva l'altro giorno, dei due... Sicuramente oggi ho visto sulla Gazzetta la top 10, è chiaro che se Pogba diventa il giocatore più costoso della storia, questo non lo rende il più forte della storia. Quindi sì, in questo io sono d'accordo con gli ascoltatori, però non è che adesso Pogba non vale niente, vale 60-70 milioni per le prospettive, e se dovesse arrivare lo United veramente che dà 120 milioni, non è che perché ci sono i giornalisti servi, lecchini di qualcuno, è perché c'è un club che li spende quei soldi. Non è che i giornalisti fanno la collera, no, c'è un club, c'è un club che lo valuta così. Fammi salutare Paolo Condò, grazie Paolo. Ciao Giovanni, ciao Pier. Poi ci sarà anche da ragionare su perché Deschamps l'abbia fatto giocare a 50 metri dalla porta del portiere avversario. Christian, ci sei? Sì, ci sono. Però devi pazientare dopo la borsa. Okay. Stai lì che ripartiamo da te. Borsa. Prima sfondo. svolta della partita, ancora lunga però. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Franco Schipani, Alessandra Fiori. Buongiorno. Tintarella di luna, tintarella color latte. Alessandra Fiori e Franco Schipani ci tengono compagnia per tutto il mese di luglio con Mix 24 Estate, raccontandoci gli anni 60 e 70 attraverso la musica e la storia. Tutte le mattine alle 9.30 su Radio 24. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Si ricomincia. Tutti convocati. Aspettiamo, 800-24-00-24, Pier... Ti leggo due messaggi, poi c'è Cristian da Brescia. Pogba non va via dalla Juve perché nessuno lo valuta un fenomeno da 120 milioni. E poi ancora scrive un altro tifoso juventino: dico a Marotta di vendere Pogba se c'è chi offre 40-50 milioni perché non è un top player. Un altro juventino dice: Pogba forse non varrà 100 milioni, però io al Milan lo vorrei, come Griezmann che ha perso due finali in 43 giorni, che anche questo è un bel record, una bella storia da raccontare. Un altro amico dice: premetto che sono juventino, concordo che Pogba sia un pelo sopravvalutato, ma per 123 milioni di euro io glielo porto in spalle a Manchester. Cristian da Brescia. Sì, ciao, buongiorno. Eccoci. Innanzitutto vi faccio i complimenti per la trasmissione perché siete molto bravi. Grazie. E volevo condividere con voi una riflessione che io mi è venuta dopo la vittoria del Portogallo contro la Croazia, e che ho condiviso con i miei amici, mi davano un po' tutti per pazzo, che secondo me il Portogallo avrebbe vinto l'Europeo perché mi ha ricordato la vittoria del Chelsea in Champions League. Mm. Il Chelsea per anni tentò la vittoria in Champions con allenatori e fuori classe a destra e a sinistra, e la vinse invece con Di Matteo, che fu generato l'allenatore, lui era il secondo, venne mantenuto lui. La vinse contro il Bayern probabilmente quando non se l'aspettava più nessuno, a Monaco ai rigori sotto la curva del Bayern, e quindi ecco, mi ha ricordato questo. Il calcio a volte dà queste, toglie magari gli anni precedenti e poi e poi improvvisamente restituisce. Aveva dato tanto anche alla Francia, Pier, e poi ieri sera gli ha tolto improvvisamente emozione, tutto. Emozione accolta, assolutamente. Emozione accolta, bello questo paragone col Chelsea, anche è bello. Anche sì, esatto, anche la dimensione, i rapporti di forza, come diceva giustamente Paolo Gondò, Portogallo non era la Danimarca, non era la Grecia, non era il Leicester, cioè era un outsider. È come se, e quindi il Chelsea quell'anno lì ci sta perfettamente. Quello rimane uno dei grandi misteri del calcio, ma è la conferma di quello che ripeto ormai come un disco rotto, cioè che comunque alla fine è un altro sport, è tecnicamente un altro sport. Cioè, un conto sono 38 partite dove se sei più forte, se sei più strutturato, se hai più cambi, se hai più un conto è giocarne sette, fai 9 punti. Di cui 4 assolutamente decisive e le prime 3 con una formula che però, ripeto, io do 7,5 come voto a questo europeo. A me è piaciuto tantissimo, tantissimo. Viva la formula 24 squadre, questo vale anche più del mondiale. Io non so cosa ne pensi tu, ma io mi sono divertito. A me è piaciuto. Medio, secondo me non è stato un europeo strepitoso, è stato un europeo equilibrato. E nell'equilibrio appunto è venuta fuori una squadra alternativa come fu equilibrato quello del 2004, però in generale secondo me è un segno di crescita del movimento calcio, cioè l'idea che squadre come l'Islanda, l'Albania, l'Irlanda, squadre che insomma storicamente l'Islanda e l'Albania in maniera clamorosa non hanno un passato, non hanno una tradizione, possano fare così bene, è una dimostrazione del fatto che il calcio cresce, il calcio continua a evangelizzare il mondo sia dal punto di vista delle passioni che dal punto di vista della qualità tecnica dei giocatori, per cui hai dei posti dove fino a 10 anni fa, forse 10 anni no, 20 anni o 30 anni fa perdevi 10-0 e oggi adesso squadre che vengono all'europeo e l'Albania, tutte tranne l'Albania, si qualificano tra le esordenti, e l'Albania fuori per un niente. Massimo da Milano. Sì, buongiorno a tutti voi. Vai. No, nulla, il mio commento riguardo alla finale è che ha vinto una vecchia teoria anche trapattoniana, se vogliamo dire, del primo non prenderle e poi qualcosa accadrà. Questo quando non è una squadra come può essere la Francia, ecco. Sì, anche se il paragone tra il Portogallo e Trapattoni, a parte che Trapattoni non giocava prima non prendere, Trapattoni ha avuto delle Juventus che giocavano un calcio per quei tempi anche molto offensivo, perché poi ci ascolta, se no Pier si arrabbia giustamente, il Trap. Però mi sembra limitativo dire che il Portogallo è andato a fare le barricate e ha giocato in contropiede. Anzi, Portogallo ha vinto la partita perché l'allenatore ha avuto il coraggio e l'intuizione di mettere un giocatore capace di riallungarlo un po', perché ovviamente stava indietreggiando. Poi ovviamente è chiaro, se Rui Patricio non fa quattro miracoli, se quel palo non è palo ma è gol, parliamo di un'altra storia. Però sicuramente il Portogallo si stava arroccando troppo, c'è stata l'intuizione giusta di alzarlo. Sappiamo che comunque una punta spesso è quello che serve per evitare di farsi schiacciare troppo, e da quel momento poi il Portogallo è tornato tonico e ha costruito. Sì, se l'è giocato. Negli ultimi 40 minuti se l'è giocato. A proposito di Albania, c'è Gianni De Biasi che si porterà comunque la soddisfazione di aver battuto i futuri campioni, perché ricorderete che nel girone si cominciò proprio con la vittoria. Portogallo si è salvato nel girone di qualificazione e nel girone eliminatorio, perché è passato, esatto, come tanti ricordano, come terza ripescata, ma secondo me questo è un pregio, ripeto. Però io questo messaggio lo voglio leggere. Roberto, scusate, sono giorni che dite che il calcio prima toglie e poi dà, quando è che tocca a noi del Toro? Questa era meravigliosa, l'abbiamo citato, bravissimo Roberto. Parliamo del weekend dei triangoli, perché c'è stato anche il weekend e soprattutto la domenica del triangolo. Triangolo no, non l'avevo considerato, d'accordo ci troverò, la geometria non è un reato. We decided four targets, from these four we have two or three, until we don't have the fourth, we are still working hard. When we have the fourth, we all breathe and then the market will be open, because we are not going to get the fourth on the 31st of August, no way. We are going to get the fourth before that, and then we are stable. Io ho un contratto fino al 2019 ancora, mancano un po' di anni, allora io rimarrò qua sicuramente. Io ogni anno sono contento di stare qua e sono anche felice di portare la fascia che ha portato Zanetti. Poi se riesco a farlo tanti anni come l'ha fatto lui, sarò ancora più contento. Indirizzo ce l'ho. Lasagna, il gol di Lasagna, il gol di Kevin Lasagna. Ti telefonerò. Il primo triangolo era quello intorno a Pogba, ma ne abbiamo straparlato, poi c'è questa cosa che adesso cerchiamo di farci spiegare anche da un grande esperto di mercato del Milan, dei cinesi, che prende la Padula, tratta Lasagna, Zielinski, c'è qualcosa che mi sfugge, ma il triangolo, Pier, più intrigante è quello tra Vandanara, Icardi e l'Inter. Saluto anche per Paolo Marino, ciao direttore. Ciao. Tu hai mai trattato con una moglie procuratrice? Sì, addirittura nel 1980. Ah sì? Quindi non è una novità assoluta. E chi era il giocatore? Era la moglie di Juari. La moglie di Juari. Il brasiliano che prendemmo all'Avellino. Sì, sì. E com'era? Com'è? In questo intreccio, perché c'è tanto che va forse oltre la semplice trattativa, sì, anche no, quello che abbiamo visto ieri. Sì, il problema è che, tra l'altro, quel matrimonio di Juari fece molto parlare, perché si trattò di uno dei primi matrimoni di personaggi, diciamo, del calcio brasiliano fra un giocatore di colore e una bianca, e quindi fu anche oggetto di razzismo, per cui ne riuscimmo a approfittare, perché fu trasferito dal San Paolo in Messico il giocatore, ma questo non interessa. Il problema grosso è che sono caduti gli albi dei procuratori e è stato legalizzato il fatto che un parente di un giocatore, quindi acquisito o non, quindi padre, figlio, madre, fratello, possono fare i procuratori. E in uno scenario con la deregulation del vincolo che c'è stata progressivamente con la Bosman e tutto il resto, la vera proprietà dei giocatori è dei familiari oggi, che ne possono essere anche agenti. E infatti parla il fratello di Higuain a Napoli, parla Wanda a Milano e ne vedremo sempre di più. Ma tu che idea ti sei fatto di quello che è successo ieri? Lo riassumiamo in pochi secondi. Wanda Nara che su Twitter va alla rottura con l'Inter, che vuole vendere Icardi, che ha bisogno di soldi, che non mantiene le promesse, poi cancella tutto, poi pare che insomma l'Inter parli con Mauro Icardi, la questione forse rientra o forse no, di sicuro alza un grandissimo polverone. Sì, per la società è molto scomoda come cosa, è chiaramente una mossa rivolta a mettere l'Inter con il coltello alla gola, se mi passate il termine, per scucire altre gratificazioni di contratto. Non mi sembra una questione tendente a un trasferimento, onestamente. Sì, vuole quel rinnovo di contratto. Di sì, cui sì, loro hanno fatto parla. Il gioco delle parti. Tu che Wanda dici questo e io invece li accarezzo, in modo che poi loro mi mettono a posto. Tu dici che va a finire così. Abbiamo il traffico, poi torniamo ancora per parlare di triangoli. Tutti convocati. Tutti convocati. Forza Italia, speriamo che in cima queste due partite proprio che faccio lo meglio possibile. Gol. Anche questa storia nel calciomercato. Pelé che va allo Shandong Luning, attualmente penultimo con 13 punti in 16 giornate nel campionato cinese, e guadagnerà. Pier, ci sei? Pier? Ma lo sai quanti abitanti fa Shandong? Aspetta, lo sapete quanto guadagna? Quanto guadagnerà? 40 milioni. 38 40 milioni. Milioni nei prossimi 2 anni e mezzo. Sì, ha fatto quanti bene. Abitanti fa? No, beh, lui ha fatto benissimo. Anzi, se cercate i giornalisti, se non mi sbaglio, noi siamo qua. Se non mi sbaglio, fa 110 milioni di abitanti. 110 milioni di abitanti. Quindi 35 centesimi abitanti. Non è neanche una cifra. Anzi, secondo me. Può chiedere hai fatto qualcosa i conti di più. Molto bene. Dai, dico io l'altra cattiveria che gira in rete. È andato in Cina perché là non usano il cucchiaio. Così si è risolto il problema dei calci di rigore. Posso dire che auguriamo, al di là del fatto che come sempre i problemi della vita sono alti e questo viaggio lo dimostra, però insomma auguriamo a Pelé di trovare la strada nei prossimi anni, la soddisfazione di potersi in qualche modo riscattare da questo che è stato certamente un pessimo finale, perché ha fatto un errore, un doppio errore tecnico nel tirare il rigore e comportamentale nel prendersi quel rischio che evidentemente non poteva sopportare. E però diciamo Localura, che ha fatto un buon europeo, è comunque un giocatore famoso, patrimonio del calcio italiano, non è. Speriamo di avere in futuro attaccanti più forti, anche se sparisce, no? Un po' dai radar della nazionale, diciamo. Perfetto, che c'è certo, anche certo. Questo rischio. A proposito di triangoli, mal di pancia per Paolo Marino, sta per tornare Higuain, triangolo lui De Laurentiis, Napoli, fratello di Higuain, quasi un quadrilatero. Sì. Che deve fare il Napoli? Dai, a 60-70 si vende. Sì, no? No, io penso che il Napoli abbia il dovere innanzitutto di mettersi a un tavolo e cercare una mediazione. Ci vorrebbe un atto di diplomazia da parte di qualche dirigente, non di De Laurentiis, che va sempre in prima persona e a volte non fa bene. E poi, secondo me, una soluzione bisogna trovarla, perché il Napoli non può tenere Higuain che non rinnova, perché sarebbe un autogol clamoroso, come il marito famoso che fa il dispetto alla moglie. E quindi dovrebbero tentare di trovare la strada di un abbassamento della clausola e un anno ancora di prolungamento di contratto, così da mettere il giocatore in condizione di giocare ancora un anno a Napoli, che il Napoli ne ha bisogno. Anche perché sta nascendo una squadra non banale, se dovesse davvero chiudere per Witzel, magari per Candreva. La grandezza di Pierpaolo, cioè, il fatto che conosce il mestiere, perché questa per esempio è un tipo di soluzione che ci sta. perché abbassare la clausola significa, tra virgolette, fare un regalo al giocatore, cioè dargli la possibilità di essere fra un anno comunque più appetibile, con un prezzo un pochino più basso, al tempo stesso salvaguardare gli interessi del Napoli, perché chiaramente ce l'avresti per un'altra stagione, e ovviamente allungando il contratto non andresti a rischio scadenza. Quindi questa è una soluzione di grande buonsenso, ovviamente dal punto di vista del Napoli è una soluzione che è molto interessante. Bisogna capire, a proposito di triangoli, se quelle dichiarazioni del fratello erano dichiarazioni tese semplicemente a battere cassa, oppure se erano dichiarazioni che raccontano una voglia, se erano un preannuncio di trasloco. Sì, sì. Questo è il vero tema, insomma, anche se poi il vero paradosso è che non mi sembra che Higuain abbia poi tutte queste offerte sul piatto ad oggi, che è un paradosso, perché stiamo parlando di uno dei migliori attaccanti al mondo, ma senza se e senza ma. Sì, sì. No, il problema è la clausola, 94 milioni. No, 94 non se lo prende nessuno, magari i cinesi, se hanno voglia. Ma io dico 75 magari. Sì, sì, ma io penso che se il Napoli decidesse di prenderne 60-70 ne troverebbe 3 o 4 di acquirenti, non c'è problema su quello. Però tecnicamente non gli conviene al Napoli, anche perché corre il rischio di arrivare sul mercato della punta di sostituzione quando quel mercato lì si è già evaporato, e quindi non trovare il sostituto adeguato e toppare la stagione. Cioè, queste sono operazioni che si fanno tra maggio e giugno, si progettano, esatto, si costruiscono. Sì, tu dopo devi andare dai top player per sostituirlo, non puoi andare da quelli che il mercato ha lasciato per strada. Abbiamo un minuto, non riesco a farvi sentire una cosa, ve la faccio sentire dopo il GR delle 15, però vi giro due messaggi. Il primo è: quindi per i cinesi 10 Pellè valgono il Milan, Stefano da Monza. E poi c'è chi dice: non è che in Cina cercano un amministratore delegato, perché ne abbiamo uno con la cravatta gialla. Per Paolo Marino, in 30 secondi, ma non più di 30, perché poi c'è il GR. Io oggi, quando ho letto che il Milan è su Kevin Lasagna, mi sono fatto qualche domanda. Ma non per Lasagna, No, perché Lasagna è anche un buon prospetto. Però... si esagera poi nei discorsi, perché va bene la Padula, perché è anche un giocatore maturo, ma poi aggiungere la Padula alla Lasagna si corre il rischio di esagerare. Sì, c'è qualche perplessità. Grazie per Paolo Marino. Grazie direttore. Pier, ti saluto, a domani. Assolutamente. A domani. Dopo il GR delle 15 vi facciamo sentire un grande italiano che si cimenta con una lingua straniera, e non è Mazzarri. 800 24 00 24, torniamo dopo il GR. E l'arbitro fischia la fine dei tempi regolamentari, si va ai supplementari. La partita si allunga, in molti l'avevano previsto. Tutti convocati. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a un'Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere. E ascoltare! Convocati. Questo è un messaggio rivolto a tutti coloro che parlano tedesco, va bene. 800 24 00 24, avete tempo fino alle 15:30. Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, chiamate, vi faccio intervenire subito. Mi dovete dire che voto date al tedesco di Carletto Ancelotti. Ich bin sehr glücklich und stolz hier zu sein. Ich möchte Bayern dafür danken. Questo è Carletto Ancelotti che si è presentato questa mattina al Bayern di Monaco, ha parlato tedesco come aveva fatto Guardiola 3 anni fa. Ma mi dovete dire se ha parlato tedesco bene o male, se è sul livello di Mazzarri con il suo inglese o qualcosa meglio. ha detto: potrei anche restare per 24 anni e fare un'esperienza simile a quella di Ferguson nel Manchester United. 800 24 00 24, se sentite dal Tirolo, da dove volete voi, l'importante è che parlate tedesco. Noi vi aspettiamo per fare la pagella al tedesco di Carletto Ancelotti. Enrico. Sì, buongiorno. Eccoci. Buongiorno, grazie. Parli per tedesco? La convocazione. No, Kartoffeln, Danke, sì. Anspaitrai. Come noi più o meno. Come noi, come credo Ancelotti, perché insomma non è andato troppo lontano. No, volevo semplicemente tornare sull'affermazione che avete fatto prima, lei e Pardo, sul fatto che gli europei a 24 squadre sì. siano... Ma io credo che sia un continuo svilire il valore del calcio, continuare ad allargare le manifestazioni, la Champions League a 4 squadre, gli europei a 24, e credo che poi il punto più basso saranno i mondiali in Qatar. Perché a rigor di logica il Portogallo primo non sarebbe neanche passato, non avrebbe neanche passato il suo girone, e se non ci fossero state l'allargamento a 24 squadre, non credo, non voglio sbagliare, non si sarebbe neanche qualificato. No, per l'europeo. Portogallo si sarebbe credo qualificato ugualmente per il campionato europeo, o magari sarebbe stato costretto a passare dei play-off. E gli è già capitato nella storia, e non per questo è rimasto fuori, ma ha eliminato tra l'altro con una tripletta di Ronaldo anche la Svezia di Ibrahimovic qualche anno fa. Però a me sembra che l'europeo a 24 squadre, oltre ad aver mostrato che c'è un'Europa che comunque è competitiva, perché ripeto, tra le debuttanti, Enrico, è rimasta fuori dal girone e davvero di un pelo soltanto l'Albania, che comunque ha fatto vedere un buon calcio, ha dimostrato che piano piano la base si sta allargando, e io questa la trovo una buona notizia, non una cattiva notizia. Orazio. Sì, signor Capuano, buonasera. Eccoci. Complimenti per la trasmissione. Tanto c'è un amico, Emi da Bologna, che dice: siamo al livello di Mazzari o forse peggio, Ich bin non si può sentire. Noi vi aspettiamo, se sapete il tedesco. Prego, Orazio. Io non so una parola di tedesco, premessa. Ascolti, niente, io la chiamo per portare a conoscenza il caso che sta infiammando un po' tutti i forum juventini, napoletani in sì. questi giorni. Praticamente il signor Carlo Alvino, telecronista di Sky, ieri sera in diretta si è permesso di dire che spera che gli juventini muoiano lentamente. E praticamente io ero con mio figlio di 9 anni a vederlo, e siamo rimasti senza parole. E se lei va sui forum juventini e napoletani, sta scoppiando una guerra sì, incredibile. Orazio, possiamo sottrarci, sì. nel senso che se Carlo Alvino, non ho motivo per dubitarne, però io non l'ho visto, non l'ho sentito, però se ha detto quelle cose lì ha certamente sbagliato. E avrà modo di ripensarci, e magari se ha sbagliato di chiarire meglio il pensiero, non qui. Grazie Orazio. Paolo da Bolzano, ci siamo? Sì, pronto. Parla tedesco? Buongiorno, no, sono italiano. Però parla tedesco. Sì, abito a Firenze, ho vissuto 20 anni a Bolzano. Facciamo allora, l'esame. Facciamo l'esame di tedesco. È andato bene a parte la pronuncia. Sì. Che vabbè, non è facile le prime volte. L'unica cosa abbastanza comica che ha fatto, ha detto stolt, che in italiano c'è un'assonanza con stolto, e invece la parola corretta sarebbe stolz, che significa orgoglioso. Aspetta, Paolo, me lo fate risentire così poi ce lo traduci per bene. Fatemi risentire sì. Ancelotti questa mattina. Ich bin sehr glücklich und stolt hier zu sein. Ich möchte Bayern dafür danken. Dai, cosa ha detto Paolo? Ha detto che è molto felice di essere lì, di essere Stolz, invece ha detto Stolt, orgoglioso, e ringrazia il Bayern per l'opportunità che gli ha concesso. Quindi non è stolto, ma è orgoglioso. C'è anche un amico che scrive. Stolz, è forte perché sì. sembra stolto. Sì. Però gli diamo 6, dai, insomma tedesco ma è... Sì, madonna, ma poi... Meglio o peggio di Guardiola? Meglio o peggio di Guardiola? Guardiola non l'ho sentito all'epoca, non me lo ricordo. Il meglio di Mazzarri, Guardiola. Comunque. Meglio di Mazzarri. Soprattutto perché Mazzarri a scuola avrà studiato inglese, Ancelotti il tedesco credo di no. No, ma non aveva studiato nemmeno lo spagnolo, era celebre la sua prima conferenza stampa all'arrivo a Real Madrid. C'è un amico anche che scrive: grammaticalmente corretto ma non idiomatico, ha tradotto letteralmente dall'italiano. Magari, può essere. Vabbè, ma insomma. Lo promuoviamo, dai, grazie. Grazie a voi. Grazie. Ciao, promuoviamo ciao. Anche questo weekend che è stato pieno di tante cose, oltre il Portogallo e il calcio. Non è che quando si perde bisogna per forza trovare dei colpevoli. La squadra ci ha messo un sacco di impegno, abbiamo sbagliato, abbiamo perso e la Croazia è andata avanti. Tutti pronti? Boato, curva 18, traguardo, 47esima vittoria in carriera per Lewis Hamilton. Quarto successo in Gran Bretagna, a casa sua e ad attaccarsi a Rosberg nel campionato mondiale. Rosberg secondo e con la penalità potrebbe anche Hamilton diventare leader di questo mondiale. Siamo di nuovo nel gradino più alto, è stata una gara, posso dire, non mi aspettavo di viverla così bene, nel senso stavo molto bene fisicamente, sapevo di star bene, ma avevo veramente una gran confidence in gara già dal riscaldamento, ho fatto dei salti altissimi, sapevo che bastava 2.32, l'avevo dichiarato ieri per vincere, in realtà mi sa che è bastata 2.29 la prima. Tappa durissima. Tremenda, facevo male la grandine, una cosa incredibile, però dai. Fabio ha perso qualcosa, ma domani c'è un giorno per poter recuperare, quindi vediamo. Straight sets again. Defeats Milos Raonic, whose improvement has been a delight to watch. But it's Murray's time in the sunshine of centre court once again. Stefano Meloccaro, ciao. Eccoci, buon pomeriggio. Come te la, come te la cavi con le lingue? Andiamo con i titoli, Come te la cavi con le lingue? Beh, insomma, con l'inglese decentemente. Allora, meglio avevo molta confidence, che ha detto Gianmarco Tamberi, o meglio Stolt, che ha detto invece di Stolz Carletto Ancelotti questa mattina, e che gli amici ci hanno insomma detto è un errore. Beh, no, confidence, che tra l'altro poi nel tennis lo usano l'80% dei tennisti. Quando però l'ha detto un saltatore in alto, Ho capito. Però sai che ieri Tamberi ha fatto anche il gesto del servizio nel tennis a un certo punto. Sai che ogni ha fatto anche lo swing. Esatto. Per cui sì, diciamo che va bene confidence. Va benissimo confidence, ce lo prendiamo così come la sua medaglia d'oro. Così come ci prendiamo la cancellazione definitiva della maledizione per i britannici del torneo di Wimbledon, era già accaduta nel 2013, dopo 77 anni, ieri però Andy Murray l'ha definitivamente cancellata. Sì, beh, insomma, diciamo che il peso grosso dalle spalle se l'era tolto 3 anni fa, perché l'importante era cancellare quella, come posso dire, insomma, quella casella con zero titoli da 77 anni, no? Poi una volta che hai vinto una volta, bissi anche la seconda, slalomeggiando in mezzo a una serie di circostanze piuttosto favorevoli, va detto. E però dicevo, piano con i titoli, perché ho letto che su Twitter avete scritto con Stefano Meloccaro, convocato per parlare del nuovo re di Wimbledon, Murray. Sì. Ecco, di re ce n'è uno solo, Murray è aspirante al trono. Re quando Roger avrà vinto 7 Wimbledon parliamo di re, per il momento possiamo parlare di principino, dai. Peccato per Roger, che si è sciolto davanti a Boom Boom Raonic. Io ho letto 236 all'ora una battuta. Sì, ma non un è po' tanto come i 38 milioni di Pelé. Resto a proposito di grandi cifre. Sì, perché poi in realtà il servizio è stato uno dei fattori che ha permesso a Murray di battere Federer, ma non l'unico, perché anzi con la velocità di Federer rispondeva anche discretamente. Non è stato quello, è stato che comunque se la partita si protrae su 5 set e se Federer fa 2 doppi falli quando alla fine del quarto set, quando deve vincerla in 4 e lui fa 2 doppi falli e si fa a breccare lì, allora lì cominciano i problemi. Paradossalmente la battuta è stato il segreto di Murray, nel senso che Federer ha fatto 2 doppi falli, l'aveva fatti 2 in tutto il torneo fino a quel momento e ha fatti 2, lui che è uno normalmente molto, molto regolare al servizio, ne ha fatti 2 nel momento più sbagliato della partita più sbagliata e ha finito per perdere in 5. Comunque Re Roger ha detto che non c'è problema e torna l'anno prossimo. E il problema è che l'anno prossimo torna, che invece di averne 35 ne ha 36, e dunque non sarà un problema, però certo questa era un'occasione buona. I re buona, sono immortali. I re sono immortali e vivrà per sempre nei nostri cuori, e faremo una lapide marmorea istoriata con scritto grazie Roger, però quest'anno le cose si sono messe bene, perché comunque sai, fuori Djokovic, Nadal non è andato, Del Potro ancora è dal carrozziere a rifare tutta il telaio della macchina, per cui questa era un'occasione buona per provare a rivincere. Roger l'anno prossimo ci riprova ancora, ma sai, 365 giorni ne possono succedere di cose. Ci saremo noi ancora, per esempio, saremo ancora qui a parlare di tennis e di varie amenità sportive? Possiamo augurarci di sì. Direi di sì. Senti, invece io sono rimasto incantato da Serena Williams. Io sabato mi ha rubato gli occhi la finale con la Kerber. Bellissima, secondo me, una partita, la vera straordinaria. E che insomma, la Serena ha portato a casa, ma la Kerber non ha perso. No, la Kerber era quasi pareggiato, però siccome nel tennis poi alla fine vince una, Serena si può distrarre una volta, e succede l'anno scorso a New York con Roberta Vinci, le viene un po' di ansia per una volta in vita sua, perché deve fare il Grand Slam, poi dopo l'ondata negativa si ripercuote anche in Australia e a Parigi, però qua si è ripreso quello che è suo Serena, cioè il centrale di Wimbledon non glielo toglie nessuno, lei è arrivata a 7 vittorie, la Navratilova è a 9. E io parlavo con Pennetta e Schiavone, che ho avuto il piacere di ospitare nello studio Sky di Wimbledon, e tutte e due non hanno trovato grossi motivi per pensare che Serena nelle prossime 2-3 stagioni non possa ancora aspirare a vincere il titolo a Wimbledon, perché non ci sono grandi nomi dietro, che grandi emergenti nel tennis femminile, capito? Sì. Ha raggiunto la Steffi Graf, 22 titoli dello Slam, 7 di Wimbledon. A che posto la mettiamo nel podio all time? Che poi so che insomma è un discorso che lascia il tempo che trova, però facciamolo, visto che i numeri sono lascia questi. Lascia il tempo che trova, bravo, ma siccome ci piace fare le cose inutili, che sono le cose che danno il sale alla vita, poi non sappiamo diciamo se siamo qui l'anno prossimo, quindi facciamolo adesso e ci togliamo il problema. Se avremo altre chance, e secondo me il più forte è sempre l'ultimo che arriva. Perciò io credo che Serena sia... Cioè, credo che non avrebbe perso con nessuna delle sue colleghe dei secoli precedenti. Poi è chiaro che nel tennis, molto più che in altri sport, sai, le racchette nuove, le corde nuove hanno veramente dato un impulso molto particolare. Non è paragonabile quello che succede oggi con quello che succedeva molti anni fa. Detto ciò, Serena è la più forte di sempre. Sottoscrivo, grazie Stefano. Sì. Grazie a te. Grazie a Stefano Melocchero, andiamo sulle strade del Tour. Saluto Davide Cassani da Andorra, se non sbaglio, Davide, giusto? Giusto, buona giornata. Buona giornata anche a te. Oggi giornata di riposo per il Tour, mai come questa volta meritata per quello che abbiamo visto. Io ho sotto mano la Gazzetta, il Tour da eroi, l'ultima mezz'ora ieri infernale con pioggia, grandine, con Froome che cercava di attaccare ma non ha staccato gli altri, con Aru che ha fatto fatica, ha perso un minuto ma non è ancora fuori dalla classifica, con Nibali che ha fatto il gregario. Io, da dove si può partire per mettere in fila questa domenica e questa prima settimana di Tour? Che non c'è un dominatore fino ad oggi, c'è un grande equilibrio, 10 corridori nello spazio di un minuto, Quintana che preferisce stare a ruota, Froome che attacca in discesa con due sorprese, Martin e Yates che sono secondo e terzo. Un Tour dove i Pirenei non ci hanno fatto capire ancora granché, e quindi aspetteremo il 21 questa settimana, ma soprattutto le Alpi nell'ultimo. Sì, ci sono, sto dando un'occhiata alla classifica, 10 ciclisti in un minuto e un secondo. E io non so che cosa significa, perché Froome in questa settimana in realtà ha provato a strappare. Ha provato, ma non con grande decisione. Addirittura lui è riuscito a fare la differenza a margine ancora, sì, sul Gran Premio della Montagna. Ma io penso di sì, è supportato da una grande squadra, hanno preso in mano la situazione, e quindi probabilmente tutti hanno paura delle Alpi, e probabilmente nessuno si sente superiore agli avversari, e quindi tutti hanno paura a fare il primo passo, il primo scatto, e quindi c'è molta attesa. Però comunque appunto il bello è che è ancora un tour apertissimo, sai, già l'anno scorso dopo la prima salita c'era un padrone, Froome, e alla fine nonostante le difficoltà delle ultime giornate riuscì a vincere la corsa. Fabio Aru è ancora dentro, la classifica dice di sì, 1 minuto e 23 secondi, certo, possono essere tanti, sì, o pochissimi al tour. Non dimentichiamoci che per Fabio è il primo tour, ieri ha avuto qualche difficoltà negli ultimi 7-8 chilometri ed è stato supportato alla grande da Vincenzo Nibali, ha usato 1 minuto di ritardo ma non è affondato, tra l'altro questa mattina l'ho visto molto sereno, determinato, per nulla preoccupato, e questo mi fa ben sperare per le ultime 2 settimane. Ma dobbiamo aspettarcelo come? Hai ragione, tu ricordi il primo tour, solitamente si approccia con incoscienza ma anche con grandissimo rispetto. Come sempre, al tour serve prima di tutto il rispetto. Fabio è un ragazzo intelligente, ha fatto già 2 podi al giro, ha vinto 1 volta, ma qui gli avversari sono davvero tostissimi e sono in grandi condizioni. L'obiettivo per lui è arrivare nei primi 10, possibilmente nei primi 5, c'è ancora questa possibilità. Ha la fortuna di avere al fianco un corridore come Vincenzo Nibali che, oltre a stargli di fianco come ieri, dispenserà sicuramente utili consigli, e quindi io penso che possa concludere molto meglio questo tour rispetto alle prime tappe. Poi ripeto, è andato bene fino all'altro ieri, poi probabilmente sì, ieri una mezza giornata come ieri può capitare. Certo, può capitare, ma la cosa bella è che comunque ha lottato, ha perso solo 1 minuto nei confronti di Froome e dei più quotati avversari. L'ultima riflessione è su Nibali, che ieri ha fatto il capitano, il gregario, come vogliamo. Io so che tu gli avevi consigliato di andare al tour dopo il giro pensando all'Olimpiade. In tanti, guardando la classifica e la prima settimana, storcono il naso, 34 minuti ovviamente fuori dalla corsa. In non prospettiva si può, Olimpiade, non si può. Che voto, ecco, gli diamo? Subito, non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena, nel senso che Nibali si è preparato per fare bene al giro e l'ha vinto. In un percorso duro come quello di Rio è impensabile prepararsi affrontando il giro di Polonia dove ci sono salito da 2-3 km. La cosa migliore è fare il tour. E alla fine bisogna comunque capire che uno non può andare forte sempre e comunque. E quindi Vincenzo l'ha detto a gennaio, farò il giro per vincere e il mio secondo obiettivo è Rio. E dal momento che si parla di giochi olimpici, di una corsa importante, probabilmente l'ultima possibilità per Vincenzo di conquistare una medaglia ai giochi olimpici, ha dovuto sacrificare, diciamo così, il Tour de France, e l'ha detto subito, sono a disposizione della squadra e sta facendo come quello che ha detto mesi fa. Quindi restiamo cautamente fiduciosi. Grazie Davide Cassani. Prego. Grazie Davide, restiamo cautamente fiduciosi. Abbiamo meno di 2 minuti. Said da Ferrara, Said. Sì, buongiorno. Buongiorno Capone. Ascolti, io voglio dire la mia su Pogba. Sì. Cioè, presumo che è un buon giocatore, a me piace da morire, sì, però non voglio far arrabbiare qualcuno. 120 milioni mi sa che è un valore molto esagerato. Io con quei soldi lì, se fosse l'Inter, che è la mia squadra, io quella cifra lì compro Chaka, che è il regista della Svizzera, compro al centrocampo Vidal con Nainggolan, compro un centravanti come Gignac o come Kéder del Portogallo, e mi rimane qualcosina in tasca. Secondo me non molto, secondo me non molto, però, sì, però con 120 milioni si possono fare tante cose, hai ragione. Se valutiamo una 80ina di milioni tra Vidal e Nainggolan. Sì, sì, sì. Beh, comunque altre... si possono fare tante cose. Poi c'è l'esperienza, insomma, che racconta anche all'interno della stessa Juve, che scendendo un grande campione con la programmazione si può anche rinforzare la squadra. Cristian da Milano, dai che riusciamo a farlo. Cristian. Sì, Cristian, dai che siamo in chiusura. Beh, volevo farti i complimenti e niente, l'Europeo secondo me è stato bellissimo. E è la conferma della globalizzazione del calcio. Finalmente anche l'Albania, l'Islanda, si gioca il calcio dappertutto, e secondo me l'Europeo ha dato questa conferma, ok? Sono assolutamente d'accordo, grazie Cristian. Abbiamo finito, sì. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento è domani dopo le 14. Io vi lascio col padre di tutti i tedeschi d'Italia. Ciao! Trunz! Struss in sbagliare, Iasge, Spiel, Sene, Spiel. Insieme a Ferlez. Basta, Erlaube, Struss.